quando io nacqui non piansi, urlai a morte l'Austria, viva il re. A 3 anni giocavo alla guerra e facevo un fracasso indiavolato nelle battaglie che improvvisavo. Mettevo tutto in fila, maschietti e femminucce, ed io in testa si marciava, naturalmente contro l'Austria. A 5 anni, con le lettere maiuscole che mio padre mi aveva regalato per insegnarmi l'alfabeto, composi un'unica frase: a morte l'Austria, viva il re. A 7 anni, in una battaglia navale, affondai l'intera flotta di mio cugino Lulu, ancorata nella gran vasca del giardino di casa nostra. Così perisca l'Austria, gridai. A 8 anni mi sedevo sulle ginocchia di mio padre, ascoltavo le sue storie belliche senza mai stancarmi, divertendomi con i suoi lunghi, lunghissimi baffi. Io non ho mai giocato con le bamboline, come si converrebbe per una femmina come me. Io ho sempre giocato con i soldatini. Non che non amassi e non ami essere donna, tutt'altro, in futuro non disdegnerei una vita da madre, allattare, cullare, scolacciare, baciare. Ma semplicemente, fino ad oggi, ho sempre amato maggiormente la mia patria, e ora, finalmente, questo grande amore può avere la sua consacrazione in questo matrimonio chiamato guerra. E se per far parte di questa celebrazione il prezzo da pagare è fingere d'essere uomo, io faccio un passo avanti e dico sì, lo voglio, e son felice di castrare la mia femminilità aggiustandomi il pantalone e ciò che in esso v'è contenuto. Oggi è il 24 aprile 1916 e sono passati ben 11 mesi da quel 24 maggio 1915, la gloriosa data in cui l'Italia ha deciso di farsi grande e combattere contro il nemico austriaco. Ad oggi sono dunque centinaia i giorni nei quali questi soldati eroi hanno combattuto e combattono per un unico ideale chiamato Italia. E posso dirti che sono centinaia i giorni nei quali tutti questi uomini, ragazzi e generali hanno smascherato e inibito le strategie della morte, ma non hanno compreso che io sia una donna. A qualsiasi latitudine, in qualsiasi situazione, il maschio rimane sempre una creatura semplice. Purtroppo per combattere è vietato possedere un seno, ma per mia fortuna nascondere e camuffare il mio non risulta mai un'impresa molto ardua. Una fascia intorno al petto ed il giuoco è fatto, nessuno ci fa caso. Qui siamo tutti fasciati su qualche parte del corpo. Ti confesso però che nonostante la mia tempra, adattarsi alla vita di uomo insieme agli uomini non è stato molto semplice. In particolare, devo dirti che una cosa che non riesco proprio a fare è ridere delle barzellette che raccontano. Non fanno ridere. Non vi è in alcun modo una parvenza di acume o di ironia. Pene, fondo schiena, copulazioni come se piovesse, rotti e pernacchie sono le voci in maiuscolo nel vocabolario ilare del soldato. Schivare una granata mi risulta più facile che ridere delle freddure che raccontano. Per fortuna, però, a tenere a bada queste femminucce inebetite c'è lui, il generale Luigi Cadorna, un uomo estremamente severo ed attraente che con la sua possanza è capace spesso di mettere in crisi la mia convinzione di voler mantenere celata la mia identità femminea. Su via, riguardo all'attrazione fisica scherzavo. Il generale non corrisponde al mio tipo, ma parlando di severità non mentivo. Ecco, per esempio, cosa ci dice prima di ogni assalto. La disciplina è la fiamma spirituale della vittoria. Vince la truppa più disciplinata, non la meglio istruita. Vince chi ha nel cuore ostinata la volontà di vincere e incrollabile la fede nel successo. La disciplina è una sacra legge d'amore che ha le sue fondamenta nell'ordine perfetto e nell'obbedienza assoluta. Non ignorate che coloro che tenteranno ignominiosamente di arrendersi o di retrocedere durante gli attacchi saranno subitamente fucilati o dagli ufficiali stessi o dalla linea di carabinieri appositamente presente alle loro spalle, incaricata di vigilare sull'integrità delle truppe. Sarete dunque nella morsa di fuoco e quando la morte vi si porrà dinanzi potrete scegliere se spirare con orgoglio combattendo contro il nemico o con viltà e sdegno venendo puniti per la vostra codardia. Che adrenalina! Viva l'esercito, viva l'Italia, a morte l'Austria, viva il re! è scoppiata la guerra, per strada non si vede più neanche un uomo. La guerra ha reso l'Italia un paese di donne. In patria sono rimasti ormai soltanto i bambini, i vecchi, gli infermi, i politici. Solitamente le rivoluzioni portano alla guerra. In questo caso si può dire esattamente il contrario. Questa guerra sta portando alla rivoluzione. Guardo la città dalla finestra e vedo decine e decine di donne liberate finalmente dalle proprie case e liberate pure da quei vestiti, strumenti di tortura lunghi, scomodi e soffocanti. Eccole lì, con tute da lavoro, gonne più corte, addirittura pantaloni. Sì, la guerra ci ha portato i pantaloni. L'uomo è al fronte, ora è la donna che lavora per mantenere l'Italia intera. Ecco allora autiste di ambulanze, autobus, tram, taxi, telegrafiste, postine, poliziotte, medici, musiciste o albergatrici come me. Io sono fiera nel dire che questo piccolo albergo è di mia intera proprietà. Amo il mio lavoro e amo rispondere a muso duro a certi politici che non intendono pagare il soggiorno per chissà quale arcano motivo. Amo vincere ed amo vedere sui loro volti la rabbia e il risentimento nel dover perdere contro una donna e soprattutto nel dover dare a lei dei soldi senza poterla possedere. Mi chiamo Eva e la frase che sento dirmi più spesso è: tuo marito dovrebbe farti stare zitta. Purtroppo però si dà il caso che io sia una delle prime donne in Italia ad essersi separata legalmente dal proprio sposo, Carlo Hauler, un uomo meraviglioso di cui mantengo la stima e per questo ho deciso di mantenere il suo cognome. Io ho due principali passioni, la moda e la giustizia, e per questo considero soltanto le parole che escono dalla bocca di Gabrielle Coco Chanel, un incredibile stilista emergente, e Elena di Savoia, l'attuale regina d'Italia. Sotto i miei occhi vedo nascere e crescere la nuova figura della donna moderna. E che cosa vuole la donna moderna? Diventare ragione senza perdere il sentimento, diventare diritto senza perdere il dovere, diventare lavoro senza perdere la poesia. Ed ecco perché la mentalità a cui aspirano le donne contemporanee è uno dei grandi segni precursori dei tempi nuovi, una delle più grandi potenze dell'avvenire. Noi, da angeli del focolare, siamo diventate angeli di fuoco. Vittorio, che comandi questo regno, quanta gente mandi a macellar. Se vuoi soldati fateli di legno, ma quel biondino lasciamelo star. Al mio marito tocca andare a far barriera contro l'invasore, ma se poi fa la guerra e lui ci muore, rimango sola con le mie creature. Ah, quanta paura che si era preso Gilmo quella mattina quando ha visto entrare il suo papà nella sua cameretta tutto imbardato così, vestito da soldato, con quel cappello, con quelle piume che spesso fanno spavento pure a me, sai? Ha cominciato a strillare il Gilmo, guarda, ha cominciato a piangere come mai l'avevo visto fare in quei suoi 4 anni di vita. Allora Bruno cosa ha fatto? Bruno ha sorriso, gli si è avvicinato e intenerito si è tolto il cappello e l'ha appoggiato a terra. Le lacrime sul viso di Gilmo si sono fermate istantaneamente. Bruno allora l'ha preso in braccio e l'ha baciato sulla fronte con un amore immenso e gli ha detto: che tu possa essere un uomo migliore di me, che si possa dire di te: non fu sì forte il padre. Salutato il figlio, si è diretto alla porta d'uscita, mi ha guardato, ha appoggiato una mano sulla pancia ancora una volta piena di vita, mi ha dato un bacio e mi ha detto: a presto Franca, e se n'è andato. È innegabile che mi manchi, ma la vita bisogna farla andare avanti, anche perché da sola lei non si muove, anche perché morire va bene, ma non oggi, dico io. Quindi ho cominciato a lavorare in una fabbrica bellica qui vicino. Ora è il lavoro che funziona di più, siamo quasi 1 milione di donne in Italia a lavorarci, ci hanno detto. Nel mio posto di lavoro sono la più vecchia, a fianco alla mia postazione hanno tutte 11, 15 anni, belle, giovani, maledette loro. Ci pagano il 40% in meno rispetto agli uomini, hanno tolto le norme di sicurezza per aumentare la produttività, ma noi ci diamo da fare lo stesso senza fiatare. Facciamo bombe, fucili, esplosivi di qualsiasi genere. E io un po' sono contenta, perché mi sento più vicina a Bruno. Mi piace pensare che magari i proiettili che sto facendo passano tra le mie mani. Tra qualche giorno passeranno anche tra le mani di Bruno. E allora spesso ci do un bacio ai proiettili. Ma quando è nata Maria, il pane non basta più. E quindi ho cominciato un secondo lavoro. La notte esco e accendo i lampioni del paese. All'inizio non avrei mai creduto, ma mi piace, sì. Dopo una giornata di 14 ore di lavoro il sonno mi prende a pugni, ma ormai so incassare senza cadere a terra. Così cammino per le strade deserte e buie in un silenzio magico, sentendomi l'ultima anima rimasta in questo mondo che trema. Accendo un lampione dopo l'altro e mi sento stupida solo a pensarlo, ma mi sento una dea bambina, capace di portare la luce con un gesto. Dove cammino la strada si illumina, vum, vum. Forse la mia vita che vuole un po' di sole in una notte troppo buia. Forse accendo solo lampioni, che scema. Ma per ora va bene così. Certo, Emilio, che voglio sentire la tua barzelletta, perché no? No, bene, zio. Allora, senti questa, fa morire da ridere. Due scorezze si incontrano. Non mi ricordo dove, se me l'avevano detto, in piazza. Facciamo in piazza, che luogo di ritrovo anche per le scorezze. Due scorezze si incontrano. Una dice all'altra: ciao, ma che faccia che c'hai? Cos'è successo? E l'altra gli risponde: il mio ragazzo m'ha mollato. L'hai capita? Mollato sia che la relazione amorosa, sia che la scorezza che l'ha mollata. Austriaci, sparatemi! Ora sono vostra. Oh, Dio benedica il cognac. Grazie di esistere a te e a tutti i tuoi gradi, uno per uno. Posso continuare a scrivere, Emilio? Grazie. Oggi è il 1 febbraio 1917. Siamo nel pieno della guerra e siamo tanto orgogliosi di essere vivi quanto siamo fieri dei nostri morti. Sangue e fango scrivono la storia sulle pagine bianche di questi monti innevati. Ogni tanto mi domando perché non faccio la poetessa. Il poeta maschio, puzzolente e peloso. Sai, nel maggio scorso, sull'altipiano di Asiago, l'Austria ha creduto di renderci schiavi con la sua meritano la morte solo per la lingua che parlano. Chissà poi come si scrive. Io te la scrivo come la pronuncio, che non ho ancora capito come la pronuncio. Comunque, Strafex significa spedizione punitiva, e purtroppo per loro nel nome non hanno specificato punitiva per chi. Compattezza, costanza, eroismo, odio, contrattacco, amor di patria, coraggio, disciplina e sangue freddo. Questi gli ingredienti del nostro esercito per la resistenza e la riconquista dei nostri territori rubati. A morte l'Austria, viva il re! Abbiamo riportato a casa pure la pecorella smarrita Gorizia. Gorizia che ci era stata rubata con un demoniaco strumento di guerra che vedevamo per la prima volta. Il gas, bombe di gas, non lanciate ma aperte così che il vento le portasse a noi, nei nostri polmoni, di lì a breve bruciati. Solo in queste battaglie abbiamo perso 147.000 uomini, ma Cadorna è fiero di noi perché nel mondo ci sono 83.000 austriaci di meno. Con la loro spedizione punitiva credevano di avere vita facile con noi, ma hanno avuto morte facile. Morte, bella questa, molto bella. Nonostante gli austriaci da macellare, però, devi sapere che abbiamo anche del tempo libero. E ti chiederai: cosa fate voi soldati tra un austriaco e l'altro? Devi sapere che durante la pausa dall'austriaco il soldato italiano si diletta in diverse discipline. 1. la rimozione del pidocchio, che può essere individuale o collettiva. 2. La ricerca della latrina. Distinguere il luogo deputato all'evacuazione dal resto della trincea è impresa più ardua che quella di sparare e centrare da qui l'occhio sinistro di un austriaco non arruolato e che dunque si trova nella sua cucina, nella sua maledetta Austria. Dunque, difficile. 3. Giochi di società. Tombola, morra, dama, domino, scacchi con le pedine fatte con la mollica. O mollica, non ho mai capito. Ma quello che preferisco è la roulette del pidocchio. Ci si siede tutti per terra in cerchio, si disegnano per terra dei riquadri e si puntano dei soldi su uno di questi. Si prende un fortunato pidocchio scelto tra migliaia, lo si mette al centro e si guarda in che casella salta. Ci divertiamo con poco. 4. Ultimo, la scrittura. In questo vi sono dei veri e propri accaniti, come per esempio Emilio ancora. I suoi scritti non hanno carattere informativo, hanno carattere omicida. 9 pagine per dire sto bene. E poi saremmo noi quelle frivole e prolisse. La sua penna è letale come il gas degli austriaci. Emilio ha inoltre rischiato più volte il carcere militare, perché nel suo scrivere alla famiglia non trasmetteva entusiasmo per la guerra, ma solo melodrammatiche preoccupazioni. Cadorna l'ha graziato. Ha 17 anni ed è maschio, cosa si può pretendere? Se invece leggessero quello che scrivo io qui, altro che censura, mi direbbero così ci lusinghi. In ogni caso, per evitare qualsiasi dubbio, scrivo qui tra due parentesi: viva l'esercito, viva l'Italia, a morte l'Austria, viva il re. A morti bustini, viva il jersey, tessuto di mia creazione, comodo ed elastico. Amo frugare nell'armadio dei miei amanti per vestire anche le altre donne. Ho restituito al loro corpo la libertà. La donna non era altro che un pretesto della ricchezza. Una donna attiva invece ha bisogno di stare a suo agio nel vestito per potersi rimboccare le maniche. La bellezza non è smanceria. Se le donne delle future generazioni si vestiranno comodamente senza quattro strati di biancheria intima, dovranno ringraziare noi donne di questi anni che abbiamo fatto la rivoluzione. Ah, le tue parole sono musica, Cocò. Ieri mattina sono andata a vedere una mostra d'arte contemporanea. Arte, certo. Ecco cosa fanno gli unici uomini che rimangono in patria. Degli urinatoi. Ah, è un urinatoio rovesciato, allora certo che può stare nell'eccellenza dell'arte. Duchamp. A quando i baffi sulla Gioconda, eh? Ormai non si salva più neanche Picasso. Fino a poco tempo fa mi piaceva. Grandi opere, meravigliosi disegni, con dei visi abbastanza normali. E adesso? Cos'è questo? Da dove si guarda? Dov'è la faccia? Perché ha un occhio dritto e uno storto? Ma che modelle hai, Pablo? Cocò, tu che lo conosci, digli qualcosa. Ah, Picasso mio, questa cosa non lascerà alcun segno nell'arte. Cubismo. Anche qui in Italia ci deve essere qualche problema con le modelle. Ma che collo lungo hanno queste. E che faccia schiacciata. Io capisco tutto, mio caro Modigliani. Ma se devi dipingere una donna, devi limare i suoi difetti, non accentuarli così. Sembrano delle giraffe con degli occhi a mandorla. Amedeo, su via, eh? Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, lo schiaffo ed il pugno. Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grandi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo. Cosa c'è scritto su questa rivista? È più bella della Nike di Samotracia. Noi vogliamo glorificare la guerra e il disprezzo per la donna. Cosa non dicono questi uomini per avere un po' di attenzione? Manifesto futurista. Filippo Tommaso Marinetti. Comunque si è fatto tardi, devo andare alla mia quarta riunione con il corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa. Per la guerra abbiamo allestito ben 204 ospedali territoriali e noi volontarie siamo quasi 10.000. Un vero esercito, con tanto di gradi da ufficiale sulle spalle per non farci sottomettere da nessuno. Regina Elena è una vera rivoluzionaria, è lei che ha dato l'esempio facendo sgombrare il Quirinale per renderlo uno degli ospedali. E è lei che ha inaugurato il corso di formazione per rendere infermiere noi donne, ed è lei che ha demandato compiti importanti ad un'altra Elena, Elena d'Aosta, chiamata la Duchessa di Ferro. Siamo tolleranti, come può esserlo una donna al capezzale del proprio bambino, ma anche fredde, calme, riflessive, impassibili e instancabili. Noi donne di oggi non siamo più fatte per la canocchia e per l'ago. Ah, l'ago! Appena torna Bruno, la prima cosa che facciamo è andare al lago. Ah, il lago è proprio il luogo del nostro amore. E lì ci siamo dati il primo bacio, il primo bacetto. E abbiamo concepito Gilmo. E al lago l'abbiamo fatto, sì, per la prima volta, non proprio nel lago. Vabbè. Ah, come sono felice, guarda. Ho trovato un modo per vederlo tutte le settimane, ogni domenica, quando non lavoro. Ci chiamano portatrici carniche. Siamo un gruppetto di donne volontarie, quasi 2000 in tutto, dai 16 ai 60 anni, che divise in gruppetti la mattina riempiono una gerla di 40 kg di rifornimento di vario genere, se la caricano sulle spalle e a piedi vanno su fino al fronte per portare le cose ai ragazzi. Ci facciamo decine di chilometri anche con 1000 metri di dislivello, scivolando sul ghiaccio delle Alpi, e sfidiamo il tiro dei cecchini nemici sempre lì pronti a prenderci. E io dico sempre: andiamo, se no quei ragazzi muoiono anche di fame. Ma non solo pane, portiamo anche bombe, fucili, proiettili. Io una volta ho portato un cannone. Ero la donna cannone. Che bel nome, la donna cannone. Non mi dà l'idea di grande magrezza, ma è un bel nome. Donna cannone. Ci starebbe bene una canzone anche. Comunque siamo le portatrici carniche. Io inizialmente credevo che carniche stesse per il fatto che portavamo la carne. E no. È perché lavoriamo sulle Alpi carniche, appunto. Insomma, sono scema, sì. Ma noi, come fossimo le madri di queste montagne, ci prendiamo cura di un'area che va dalle Prealpi Giulie fino al Cadore, dal Friuli al Veneto. E ogni tanto, proprio per lo spirito di protezione verso questi monti, mi viene da dire: copritevi! Guardalo là! Guarda, copritevi che prendete freddo! Guarda che c'è già la neve là! Per Alba, lascia stare il Monte Lastroni, non litigate! La zona carnica è di vitale importanza per la guerra, perché se gli austriaci ce la prendono, arrivano a valle. Ma noi ce ne prendiamo cura e lottiamo, spesso perdiamo la vita perché questo non accada. In più, in questi giorni, ho dovuto dare via la fede d'oro, la fede di Bruno. In questo periodo di crisi, l'Italia ha bisogno anche della mia fede. E di tutte quelle delle altre donne. L'Italia ha estremamente bisogno della fede di noi donne. L'ennesimo sacrificio, chissà per cosa, per non avere più Bruno qui accanto. Io ero socialista, poi sono nati Gilmo e Maria, ora non so cosa sono. Sono una socialista credente ma non praticante, che fabbrica armi per la guerra, che fa parte di una catena di montaggio della morte. Sono questo. Ma va bene così. Gilmo e Maria sono più importanti dei miei valori, perché morire va bene, ma non oggi. In fondo ci saranno altri ragazzi che porteranno avanti la bandiera socialista, come quello lì che tanto mi è rimasto impresso. Magro, svogliato, privo di disciplina, riluttante verso il lavoro, al quale insieme agli compagni abbiamo insegnato tutto sulla politica. Come si chiamava quello là? Come si chiama? Benito. Il cognome me lo ricordo. Mussolini. Eh sì. Ieri Emilio ha ammutinato i comandi di Cadorna. Diceva che non c'era strategia in nessuna delle nostre azioni militari. Diceva che in questi anni di guerra nessuno ci aveva mai insegnato una vera dottrina bellica, che nessuno ci aveva insegnato a stare, a sopravvivere in trincea, che nessuno ci aveva detto che lì c'erano i cecchini e bastava davvero poco e tanti non sarebbero morti. Diceva che l'Italia non può pretendere di vincere una guerra buttando sul campo di battaglia dei ragazzi di 16 anni. Ragazzi che non sanno sparare, non sanno far l'amore, figuriamoci se sanno fare la guerra. Diceva che eravamo soltanto bersagli mobili per le nuove armi degli austriaci, loro sì, addestrati tra lanciafiamme, carro armati, bombe sganciate dagli aerei e gas. Diceva che era già successo ben 2 volte che durante gli assalti i ragazzi austriaci stessi ci urlassero di tornare indietro, di non farci massacrare così senza motivo, che era solo da idioti. Come potete obbligarsi ad attaccare anche in salita, addirittura in scalata, uno alla volta, siamo carne da macello e ci sono più morti italiani sulle vostre coscienze che su quelle degli austriaci. Cadorna, livido dalla rabbia, ha impugnato il suo fucile e me lo ha dato. Uccidilo. Uccidilo, che fai, non mi senti? Uccidilo, se non vuoi fare la stessa fine. Uccidilo! 1, 2, 3, 4, 5, 6 colpi, uno dietro all'altro, a conficcarsi nel petto, nella pancia, nel cranio, nel cuore di Emilio. Calma, soldato. Calma. Bastava uno. Ma bravo, meglio essere sicuri di ammazzarlo. I traditori sono duri a morire. Ora seppelliscilo, riporta questo verme, nemico dell'Italia, nella terra da cui proviene. E voi intorno guardate questa scena e decidete da che parte stare, morire come vermi o vivere come eroi. Bravo soldato, tu sì che sei un vero uomo. E intanto io scavavo la sua fossa con un coltello conficcato nell'anima. Oggi è il 4 maggio 1917. D'improvviso, la guerra. Bersagliere Bruno Vives, in nome dell'Italia, è morto con orgoglio in una feroce battaglia sul Monte Ortegara. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze. Una lettera mi hanno dato e basta. Una lettera. Oggi un giovane moribondo mi ha scambiato per la madre e cadendo a terra mi ha abbracciato le gambe. Madre, madre mia, perdona il ritardo, ho fatto tardi a scuola. La zuppa è ancora calda? Perdonami madre, perdona. L'ho abbracciato, io con altre delle Croce Rossine, e gli ho detto: sei stato bravo, ti perdono, ti voglio bene figlio mio. Sono rimasta intrisa del suo sangue, mai ne avevo visto tanto e ne avevo sentito l'orrore sulle mie vesti e sulle mie mani. Cocò dice: la vita è una cosa grave, giacché fa piangere le madri. Al termine di questo disastro, se mai finirà, Noi, donne, combattenti in prima linea, nella gioia e nel dolore, ci presenteremo dinanzi agli uomini a fronte alta e domanderemo loro: e ora? Nei giorni di lavoro febbrile, nei giorni della trepidazione e della paura, noi ci siamo state. Abbiamo lottato, siamo state assassinate o siamo sopravvissute. E ora? Ora pretendiamo di essere considerate. Pretendiamo il diritto al voto che ancora ci manca. Pretendiamo di esistere e avere voce in capitolo in una storia che si è scritta anche con il sudore delle nostre vite. Ah, ancora una volta mi capita di essere ubriaca in trincea. Ah, come mi gira la testa. Oh, mamma mia. Ah, dov'è il fucile? Eccolo qua, è l'ora del bagnetto, il fucile. Come sei bello, guarda come sei bello il fucile. Come aia? Sto facendo pianissimo. Faccio più piano, promesso, più piano. Bacino, bacino il fucile. Ti piace, eh? È birichino. Oh, mamma mia, state diventando due. Uno, eccolo, uno, sei uno. Dai, dobbiamo finire il bagnetto. Ora faccio più piano. Comunque non ti ho neanche toccato questa volta, eh. Ah, volevo raccontarti una cosa. L'altro giorno sono andata a parlare con una... No, aia, mal di testa. Con una delle ragazze che stanno nella baracca rossa. Sì, la prostituta. Sì. E ho parlato con una delle ragazze lì della prostituta, che mi ha parlato di lei e mi ha detto che arrivano anche 150 rapporti al giorno. 150 rapporti al giorno. È incredibile questa cosa. E mi raccontava di lei che sta distesa su un letto sudicio rosso e la fila dei soldati in attesa arriva fino al materasso, tutti coi calzoni giù, sbracati in fila indiana, come aspettare il rancio. E fuori dalla porta un cartello con scritto: il coito sia breve. Mamma mia, tutta questa cosa qui è da bestie, eh? Tutta, anche la guerra proprio, intendo. Ma guarda come sei bello tu. Tu sei l'unica cosa bella di questa guerra. Guarda che tu sei il più bello di tutti. Li ho visti gli altri, li ho visti. Tu sei più bello e anche più lungo. Sei più duro. Potrei inventarmi una barzelletta sporca su questa cosa. Ma come ho fatto a farti male adesso? Non ti ho neanche toccato. Scusa, hai ragione tu. E che questa volta ci hanno fatto proprio esagerare col cognac. E sai cosa vuol dire se ci hanno fatto esagerare col cognac? Vuol dire che domani ci mandano all'assalto. È sempre così, bastardi. Cognac uguale assalto. A morte l'Austria. Lo urlerò anche inciampando nella tomba, mi sa. E non credo che manchi tanto. Mi manca l'amore. Voglio una carezza. Un bacio. Una tenerezza rubata. Ogni tanto mi sento talmente sola che vorrei andare a trovare quelle ragazze in quella baracca, per sentire il contatto con un'altra pelle, per sentire un po' di calore umano, per sentirmi amata anche solo per un attimo. Dio, mi manca la vita, perché me la vuoi togliere? Mi manca vivere, lo vorrei fare ora, totalmente, esageratamente. Qui si respira solo puzza di morte e di terra. L'umanità è seppellita sotto cumuli di cadaveri senza faccia. La speranza qui è follia. Ci sono sempre più ammutinamenti e sempre più decimazioni. E ora chi si ribella viene legato ad un palo, in piedi sulla trincea, esposto al fuoco nemico. Così Si risparmiano pallottole, ci dicono. Dio, perché l'inferno adesso? Non doveva arrivare dopo la morte? Questo ci avevi detto. Hai mai fatto un assalto tu? Dio? L'hai mai fatto? E perché dobbiamo farlo noi? Che siamo così tanto mortali, perché non puoi farlo tu che sei così immortale? Sai come si fa un assalto, Dio? Beh, per fare un assalto bisogna uscire dalla protezione della trincea e lanciarsi. Basta, tutto qui. Ora lo puoi fare anche tu, sai tutto. È semplice, non c'è strategia. Ci si lancia nel vuoto del fuoco nemico come dei pazzi senza cervello, come degli eroi, piccoli e impalpabili come granelli in un pugno di sabbia. E ti lanci, e lo fai sapendo che la tua sopravvivenza è determinata da un fatto puramente statistico. Il fatto che tu non ti trovi sul percorso di una pallottola. È statistica, casualità e destino. E ogni volta che un essere umano è sottoposto a una simile prova, Dio, il suo cervello si brucia, la sua capacità di intendere, di volere si fulmina. Siamo esseri psichicamente malati, Dio. Ogni giorno qui scampiamo dalle unghie della morte per 2 centimetri o per una folata di vento a nostro favore. Sai, Dio, cosa fanno subito dopo alcuni di noi graziati dal cielo? Si suicidano, sì. Dopo aver avuto salva la vita se la tolgono. Qui non c'è spazio per i vivi, Dio. C'è chi muore sotto i colpi austriaci, chi muore sotto i colpi italiani, chi muore di freddo e chi si suicida. E i restanti? I restanti aspettano la morte. Non fa differenza in che modo arriverà. Si sa che arriverà lentamente o velocemente, così come se n'è andato l'ardore patriottico. Gli unici che si possono salvare sono quelli che impazziscono o che restano traumatizzati dalla guerra. Chiamati gli scemi di guerra, vengono presi e rimandati a casa. Questo trattamento preferenziale ha indotto molti a fingere la follia. Ma anche Amleto è destinato a morire in trincea. Dio, poni fine a questa guerra, che noi non ne siamo capaci. Andiamo. Andiamo, se no i ragazzi muoiono anche di fame. Ah, che fatica. Gerla piena, gerla vuota. Dal paese al fronte, a imparare senza accorgersene i sentieri, finché ti appartengono come le vene disegnate sul dorso della mano. Noi, portatrici carniche, donne briciole, nere di umanità, in fila come formiche contro il bianco della neve. Ah, come siamo brave. Senza i nostri rifornimenti i soldati avrebbero combattuto una guerra di pernacchie, dico io. Beh, avremmo vinto di sicuro. Io cammino su. Magari la lettera mentiva. Mica posso essere così giudicante con chi sbaglia. Pure io lo faccio spesso. La minestra di ieri faceva schifo, faceva. Tutti sbagliamo. Magari domenica scorsa Bruno non c'era, per un caso. Ma questa volta c'è. Ai ai ai, che fatica. Non ho più il fisico di una volta. Per ingannare il tempo spesso mi conto le costole. Eccole qua, 1, 2, 3. E poi per la fame mi immagino a cuocerle sul fuoco con un bel bavaglio davanti e le condisco. Sì, mi immagino che le condisco col sale, l'olio, il formaggio, zuppa, un po' di carne di maiale, un cavallo e una vacca intera. Sì. Ah, cammino, mi sento più sazia e ho pure meno freddo. Anche se il cavallo mi è rimasto un po' sullo stomaco. Cammino. Il fischio delle pallottole mi trapassa l'anima, ma cammino come se nulla fosse. Questo è il mio mondo in salita, dove devo strappare la vita dai fianchi delle montagne. Cammino ancora. Silenzio. un cecchino. Lì in fondo c'è un cecchino. Ormai lo sappiamo, è sempre lì. Lo sappiamo. E cambiamo strada. Come mi dà fastidio cambiare strada perché lì c'è un cecchino. Queste montagne sono le mie, io cammino dove mi pare. Io al cecchino gli andrei sotto e gli direi: beh, ti diverti a fare il dio lì dall'alto a decidere chi vive e chi muore senza essere visto? Che io lo so che quando c'entri le bambine di 16 anni poi abbracci quell'altro lì che hai a fianco. Vieni giù e fatti sotto, gli direi. Ma credo che mi avrebbe ucciso. Quindi evito. Perché morire va bene, ma non oggi. E poi comunque non capirebbe quello che gli dico, dato che è austriaco. Prima che il respiro diventi grosso con la salita, qualcuno azzarda una canzone. Siamo una più stanata dell'altra. Cantiamo. Le note a poco si spengono con la fatica. Ma quando il fragore dei combattimenti è più vicino e la paura sale improvvisa, quasi fosse una febbre, vorresti poterlo urlare il tuo canto. Per avere solo quello nelle orecchie e non il boato intermittente dell'artiglieria più vicino a ogni passo. Ma eccoci, eccoci in trincea, siamo arrivate, appoggiamo i rifornimenti, io cerco Bruno, non mangio, lo cerco, lo immagino, lo sogno e con un pensiero riporto sulle mie labbra il sapore di un suo bacio, sento il tabacco sulla pelle. Riapro gli occhi e guardo le altre compagne con i propri innamorati e penso che siamo degli eroi di guerra e di vita, perché qui ogni bacio strappato mette in scacco la morte. Tutti gli amanti che si incontrano al fronte hanno uguale desiderio. Lei al cielo chiede di trovarlo vivo quando tornerà su, lui che l'Altissimo le protegga a ogni passo, e insieme osano l'impossibile, ovvero credere nel domani. Aspettarlo, desiderarlo come un bicchiere d'acqua in pieno deserto. Bruno non c'è neanche questa domenica, ma magari la prossima sì. Ritorniamo giù in paese. Angelica è una delle più giovani, ha da fare i suoi bisogni e si vergogna davanti a tutte. Timidina, sciocchina com'è, si allontana, scompare, bada a nascondersi ai nostri sguardi. Ma si dimentica del suo e del cecchino. Non faccio in tempo a formulare questo pensiero, a darle una voce per metterla in guardia e due colpi secchi tagliano l'aria. Non capiamo da dove vengono esplosi. Il fischio delle pallottole vicinissimo, poi silenzio. Nessuna parla. Rimane una gerla lì per terra. Ti diverti tu lassù, eh? Riprendiamo a camminare. In paese ci aspettano i mestieri di sempre, la fabbrica, i lampioni, il bucato, la zuppa. Pensando a casa però il passo si fa più leggero. Già sento le voci dei bambini dentro, Gilmo che piange e Maria che dalla culla pianta certi urli. Già sento i miei piccoli e mi dico che questa è la prova. È la prova che ci sono. Che ancora per oggi sono viva. E chissà quei poveretti lassù, chissà se ritroverò la prossima domenica tutti i sorrisi, gli sguardi affilati e le bestemmie che ho contato oggi. Domani è tra una manciata di ore in fondo, ma per chi può morire da un minuto all'altro, il tempo è una collana di attimi, granelli di presente tenuti insieme dal filo sottilissimo cui è appesa la vita. A volte mi dico che è il temporale, quel brontolio continuo anche di notte che dalle cime incombe sul paese. Spero sempre che sia il temporale, ma non lo è. L'ultima cosa che sento prima di addormentarmi, un martellare continuo che mi accompagna fino alle soglie dell'incoscienza e mi si infila subdolo nelle pieghe del sonno. Dormo. E al risveglio, quando apro gli occhi verso il cielo nero che ancora aspetta il sole, è sempre lì. a ricordarmi che tra poco il volume si alzerà e che ad ogni passo che ci avvicina alla prima linea sarà sempre più forte. Eppure quando Maria di notte piange e mi sveglia, io sento solo lei. Col visetto paonazzo mi chiede latte e vita. Allora la stringo finché non si calma. Mi calmo anch'io. E per un attimo posso anche dimenticare la guerra. Perché morire va bene, ma non... Bollettino della vittoria. Comando supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. L'esercito austro-ungarico è annientato, ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito, generale Diaz. Sono entrati nel mio albergo, mi hanno preso e portato via. Sono stata internata dalle autorità italiane in quanto soggetto austriacante, un soggetto considerato pericoloso per sospetta convivenza col nemico e per possibile attività di spionaggio. Noi ammettiamo in tempi di guerra anche il regime del sospetto, riconosciamo che in circostanze eccezionali un regime eccezionale può essere necessario. Sono stata internata. Perché? Perché porto un cognome austriacante. Per questo, per un cognome, Eva Hauler è un nemico dell'Italia. Siamo più di 4.000, principalmente donne, ma anche uomini e bambini. Siamo state prese, rubate e smistate in tutta Italia, trattate come briganti e cancellate dalla vita e dalla storia. Non esistiamo. L'internamento è attuato dalle autorità militari, è un atto di polizia amministrativa e in quanto tale non deve essere preceduto da processo. Le segnalazioni sono quasi sempre anonime, con motivazioni estremamente vaghe. Internano razze di vario tipo, pacifiste, socialiste, esponenti sindacali, operaie o anche donne dal carattere iracondo, mogli tristi, donne influenti potenzialmente capaci di far cattiva propaganda, come nobili intellettuali, e insegnanti, in generale persone che possano far supporre anche in qualche modo molto lontano un collegamento con gli austriaci, anche solo per un cognome. Ma cosa conta ora? Abbiamo vinto la guerra, giusto? Festeggiamo. Festeggiate voi, migliaia di donne che nelle fabbriche di armi vi siete ammalate di saturnismo, intossicazione da piombo. Festeggiate. Italia, cosa racconterai, eh? Cosa racconterai agli orfani dei vivi, detti anche figli della guerra, bambini nati dagli stupri degli eserciti sulle donne, bambini che appena nati vengono abbandonati o uccisi per il disonore? Cosa racconterai? Ma cosa conta? Festeggia Italia, abbiamo vinto la guerra. Oggi è il 28 novembre 1918. La guerra è finita da un po' e abbiamo vinto. Ma Andrea, amore mio, l'Italia è morta più di un anno fa. L'Italia è morta a Caporetto. La mia mano trema, ma pensare a te mi regala un po' di luce in questo inferno infinito. Non è rimasto nulla, neanche il diario che in questi anni stavo scrivendo per te, amore mio. C'è stata un'esplosione fortissima e io e i soldati vicini siamo volati a centinaia di metri da dove ci trovavamo. Riaperti gli occhi mi sono accorta che ero rimasta sepolta viva da una catasta di corpi, cadaveri dei miei compagni. Dopo non so quante ore di spari e bombe è scoppiato il silenzio e ho avuto ancora più paura, come non mai in tutta la guerra. Il mio respiro mi sembrava fortissimo. Volevo strozzarlo, ma aumentava ed era assordante. Potevano sentirlo, potevano trovarmi, potevano farmi male. Mai come in quegli interminabili istanti ho sperato di morire sul momento, e mai come in quegli interminabili istanti ho sperato di avere salva la vita. È una follia che non ti so spiegare. D'improvviso ho sentito voci di donne italiane, croci rossine, che Dio le benedica. E ho cominciato a urlare: tiratemi fuori, sono qui, sono una ragazza, sono una ragazza, ho 20 anni, tiratemi fuori. Mi hanno trovato, tirato fuori e sono svenuta. Ora sono qui e resto qui, sospese tra sogni e incubi. Il dolore alle gambe è lancinante, senza tregua sento una lama conficcata nella carne. Ma quale carne poi? Non ho più le mie gambe, amore. Le ho lasciate sulla montagna quella sera, strappate come stracci. Non ho più le mie gambe, Andrea, ma mi fanno un gran male. Le ferite, le bruciature, le cicatrici sulle mie gambe mi faranno per sempre un gran male. C'era la luna, lo sai? Quella sera la trincea era silenziosa da far paura. E la guerra, tra la neve delle montagne e la luce della luna, sembrava un'invenzione che ci avevano raccontato per mandarci lì a guardare ed aspettare in silenzio. Poi è stato un attimo. Un bagliore rosso ha insanguinato la notte, la neve, la luna. Come si può insanguinare la luna, amore? Ho ucciso 2 uomini, amore mio. Mi aspettavo un amico diverso, con una faccia diversa. Ho visto un ragazzo che potevi essere tu o Emilio, e poi un altro dietro di lui. 2 ragazzi spaventati come noi, dei bimbi vestiti con una divisa troppo larga come noi. Ho sentito un fruscio. Ho avuto solo il tempo di voltarmi e di puntare la mia arma, il mio giocattolo letale. Che faccia ha il nemico? Che faccia ha il nemico, amore? Li ho visti cadere all'indietro con un grido strozzato che mi è rimasto dentro, un eco che risuona ancora cullandomi come una ninna nanna imbevuta di colpa. Potrai mai perdonarmi, amore mio? Ho ucciso 2 uomini, ne ho uccisi molti di più, ma questi erano vicini. Li ho visti, erano veri. Li ho uccisi prima di sentire il fuoco alle gambe, prima di vedere il buio negli occhi e di ritrovarmi sotto un cumulo di cadaveri. Non tornerò a casa, anima mia, lo so. Nel delirio ripercorro con la mente il tuo profilo perché la morte che mi dorme accanto non mi rubi anche il ricordo di te. Accarezzo con le dita della memoria il tuo volto radioso più e più volte per stamparti nel cuore, per vederti ancora nella penombra di questa vista già annebbiata. Non tornerò, Andrea. In questa operazione ho perso troppo sangue. In questo conflitto ho perso troppo amore. Italia mia. Oggi noi, tutti noi, donne, uomini, madri, mogli, padri, mariti, figli, soldati e vittime, tutti insieme, guardiamo a te con speranza e paura e ti chiediamo una tregua. Una tregua da tutto questo dolore. Una tregua che valga per sempre. Dici che questa guerra mondiale è la prima e sarà l'ultima, perché l'umanità non può permettersi di morire e mortificarsi ancora così. Dici che questi pugni, questi sputi, queste bombe sveglieranno l'uomo da questo sonno malato. Dici che Emilio non morirà ancora nelle vesti di un altro soldato che combatterà in futuro. Ti chiediamo una tregua. Una tregua dai libri di storia. Ora vogliamo soltanto pagine bianche di straordinaria quotidianità per scrivere dignità, amore, bellezza e libertà. Non mi interessa la storia, Italia mia, se per scriverla ci vuole il sangue. Di me non resteranno neanche queste parole dette in faccia all'aria come una delle tante preghiere sparate in questi anni. Su questa montagna ho lasciato i miei 20 anni per chi vorrà raccoglierli e farne fiori. E quelli che terrete in mano un giorno saranno i fiori di noi guerriere.